Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Amato e rispettato in tutto il mondo, il Dalai Lama è la guida spirituale e politica del Tibet. È il volto pubblico di quel Tibet che lotta per l'indipendenza dalla Cina. Una lotta che quest'anno ha marciato accanto alla fiaccola olimpica. Questa sera, per l'appuntamento di Radio 24 con i radiodocumentari, vi proponiamo la vita di Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama. Ascoltiamo. Il Tibet è da sempre un paese isolato, circondato da alte montagne. I monasteri sono le vere scuole e i monaci di conseguenza la classe dominante. Il Tibet è una sorta di teocrazia feudale governata dalle successive incarnazioni di un unico dio re, il Dalai Lama. Nel 1932, il 13° Dalai Lama del Tibet predice un futuro terribile. Pico Iyer, autore del libro La strada aperta, vita e pensiero del 14° Dalai Lama. Descrisse molto vividamente il domani che gli attendeva e lo temeva. La gente comune sarebbe stata cacciata dalle proprie case. I monaci sarebbero stati strappati ai loro templi e l'intera cultura che aveva cercato di proteggere si sarebbe sgretolata. Dopo la morte del 13° Dalai Lama, un gruppo di monaci lascia la città di Lhasa e attraversa il paese in cerca della successiva incarnazione della grande guida spirituale. I loro passi seguono le tracce di alcune manifestazioni mistiche che li conducono a un piccolo villaggio nel nord-est del Tibet, fra gli alti pascoli della provincia di Amdo. È lì che vive Lamo Dondrub, nato il 6 luglio 1935 e che ora ha 2 anni. È il nono di 16 figli. È una famiglia di contadini e solo 7 bambini diventeranno adulti. Gli anziani monaci che bussano alla porta di questa casa tra i monti dissimulano la loro identità, ma il bambino merita uno sguardo più attento. John Avedon, autore di Il Dalai Lama ci parla. Uno di loro lo chiamò e lo fece sedere sulle sue ginocchia per pregare, sgranando il mala che aveva al collo. Il bambino rispose in un dialetto sconosciuto nella provincia e anche ai suoi genitori, dicendo che voleva quel mala perché gli apparteneva. I monaci allora dispongono davanti a lui una serie di oggetti per vedere se ne riconosce qualcuno. Il bambino riconobbe subito alcuni di quegli oggetti e si mise anche a suonare il tamburo proprio come lo suonava il 13° Dalai Lama. Poi sembrò attratto da un bastone da passeggio. Ne prese uno che poi però mise da parte e ne scelse un secondo, quello giusto. Ma anche il primo era appartenuto al 13° Dalai Lama che lo aveva poi donato ad altri. I monaci si convincono così che il ragazzino è la 14ª incarnazione del Dalai Lama. Una settimana dopo il compimento del 4° anno, Lamo Dondrub, insieme ai genitori e al fratello maggiore, parte per Lhasa. Il viaggio dura 3 mesi, attraverso le montagne del Tibet, a bordo di un mulo e a un'altitudine media di 3.000 metri. Nell'autunno del 1939, finalmente arrivano ai confini della città, dove l'imponente Potala torreggia su tutta la valle. È la residenza ufficiale del Dalai Lama, nonché monastero e sede degli uffici del governo del Tibet. Il 22 febbraio 1940, con una cerimonia ufficiale, il 14° Dalai Lama di soli 4 anni si insedia al governo e riceve un nuovo nome, Tenzin Gyatso, Oceano di Saggezza. Subito dopo inizia la sua educazione rigorosa, supervisionata da precettori personali, i quali, in attesa del 18° compleanno, governano il paese. Ancora Pico Iyer. Uno degli esercizi che i precettori gli assegnarono prevedeva la copia esatta delle parole della profezia del 13° Dalai Lama e doveva farlo tutti i giorni, fino a conoscerla a memoria. Sebbene sia solo un bambino, viene già preparato al governo spirituale e temporale del suo paese. A 7 anni, durante la Seconda Guerra Mondiale, riceve già i delegati di altri paesi. E a 11 anni assiste allo scoppio della guerra civile, in cui differenti fazioni entrano in lotta per il potere. L'unico momento in cui si concede una vacanza è il festival del buddismo tibetano, celebrato in tutta Lhasa. Durante l'estate, il Dalai Lama si sposta nella residenza di Norbulinka, o Parco del Gioiello, dove scopre qualcosa di eccezionale, ovvero un oggetto eredità del XIII Dalai Lama e proveniente dall'Occidente. Un proiettore. Inoltre vi sono anche 3 delle 4 automobili di tutto il Tibet. Gli è vietato guidarle, ma un giorno decide di provare. C'era molto spazio e mi avventurai, ma guidando finii in mezzo a grandi alberi e c'era un ramo molto basso. Così chiusi gli occhi e boom! Finita la Seconda Guerra Mondiale, uno scalatore austriaco con un passato da nazista compie la propria spedizione in quelle zone e, superando l'Himalaya, arriva a Lhasa, entrando a far parte della vita del Dalai Lama. Heinrich Harrer stringe subito amicizia con il giovane leader, che ha solo 13 anni. Diventa suo precettore di inglese e matematica, nonché fotografo, catturando così molti momenti della vita della sua famiglia. Ancora Pico Iyer. Ormai si stava aprendo alla vita reale. Era stato nutrito di molte informazioni sul significato della vita, ma ora era il momento di farne esperienza diretta. Tuttavia, il suo paese e la sua stessa casa stanno per cambiare per sempre. Nel 1949 la neofondata Repubblica Cinese, sotto la guida di Mao Zedong, annuncia di voler inviare le armate rosse per liberare il Tibet. All'inizio per molti liberare il Tibet significava farlo uscire da uno stantio feudalesimo e da una condizione arretrata, ma in pratica tutti sapevano che si sarebbe trattato di un'invasione e Mao non faceva segreto di cosa pensasse di un paese governato da un ragazzo. L'esercito di liberazione popolare cinese entra in Tibet nell'ottobre del 1950 e comincia la sua marcia verso Lhasa. L'esercito tibetano era costituito da soli 8.500 uomini che dovevano affrontare un esercito cinese di svariate migliaia di soldati. Inoltre le loro armi erano antiquate. In pratica erano completamente indifesi e non potevano opporsi. I tibetani ripongono tutte le loro speranze nel divino protettore del paese, il giovane Dalai Lama. Ma mancano ancora 3 anni al 18° compleanno e prima che le truppe cinesi raggiungano Lhasa, nomina 2 primi ministri e, per la propria incolumità, si sposta in un monastero del Tibet del Sud. Il Dalai Lama invia una delegazione a Pechino per cercare di negoziare con la Cina. Ma i cinesi invece costringono i delegati a firmare un accordo in 17 punti che attesta che il Tibet accetta la riannessione alla Cina. I cinesi reclamano da sempre il Tibet quale regione parte dei propri territori e la loro presenza in questa zona è spesso stata significativa. Ma per il Dalai Lama si è sempre trattato di nazioni separate. In molti incitano il leader tibetano a rifugiarsi in India. Tuttavia, per salvare la vita del suo popolo, egli ritorna a Lhasa, cercando il dialogo. Ancora John Avedon. Il 9 settembre 1951, 3.000 truppe dell'esercito di liberazione popolare marciano su Lhasa sotto l'effigie di Mao Zedong e Chu Enlai, accompagnati da corni e tamburi, dando inizio all'occupazione. Il Dalai Lama è l'unica barriera tra il suo popolo disarmato e l'esercito. Man mano che le truppe cinesi si riversano a Lhasa, mantenere la pace diventa una lotta quotidiana. Ma il Dalai Lama intravede nel progetto cinese una possibilità di riforma per il Tibet. Robert Thurman, professore di studi indo-tibetani all'Università della Columbia. La retorica marxista sulla liberazione dalle disuguaglianze non gli dispiaceva affatto. Nel 1954 il Dalai Lama, 19enne, viene invitato in Cina dal presidente Mao. Sarà affiancato da un altro leader spirituale, il Panchen Lama. Ancora Pico Iyer. È la seconda più alta carica del buddismo tibetano, ricoperta per successive incarnazioni, e ha un ruolo nella nomina del Dalai Lama. Tenzin Gyatso spera di persuadere Mao a liberare il Tibet, ma spera anche di imparare qualcosa da lui. Era senza dubbio un grande leader. Io gli ero molto grato per l'opportunità di quell'incontro tra noi. Parlava molto lentamente. Usava sempre un tono molto, come si dice, sussurrante. Era di poche parole, ma ognuna era molto ben soppesata e sempre significativa. Mao contagia il giovane Dalai Lama e lo abbaglia paventandogli lo sviluppo dell'industria e il progresso economico. Il Dalai Lama, a sua volta, cerca di riportare l'attenzione di Mao sulle proprie intenzioni, ovvero l'occupazione del Tibet al solo scopo della modernizzazione e la preservazione della propria cultura. Jeffrey Hopkins, professore di studi religiosi all'Università della Virginia. Probabilmente credeva davvero che si sarebbe stabilito un regime di collaborazione. Ci volle un bel po' prima che capisse, senza ombra di dubbio, che i cinesi stavano mentendo. L'inganno emerge chiaro quando nell'ultimo incontro Mao si inchina all'orecchio del Dalai Lama e gli ricorda che la religione è veleno. Le parole di Mao continuano a risuonare nelle sue orecchie e ritorna a casa con il presentimento di un imminente disastro. È una paura giustificata. Ogni giorno arrivano all'Asa notizie di soldati cinesi che saccheggiano i monasteri e aggrediscono i monaci, i quali, in ragione dei loro voti, non possono che invocare la non violenza. Nel 1956, una ricorrenza propizia la fuga del Dalai Lama, che viene invitato in India per il 25esimo anniversario della nascita del Buddha. Egli accetta subito, ignorando le proibizioni cinesi, e il suo sogno di vedere la terra sacra del buddismo diventa realtà. Mentre si trova a Nuova Delhi, ha l'occasione per la prima volta dopo tanti anni di rincontrare la propria famiglia. Inoltre, incoraggiato dagli altri monaci, durante un incontro segreto con il primo ministro indiano Pandit Nehru, il Dalai Lama chiede asilo in India. Ancora John Avedon. Ma Nehru gli rispose che era meglio che rientrasse in Tibet cercando di collaborare con i cinesi. Due dei suoi fratelli lo pregano di non ascoltare quel suggerimento, ma il Dalai Lama dà molto credito a Nehru e torna a Lhasa. Appena arrivato scopre che la situazione è sfuggita a ogni controllo. Gli giungono resoconti di sistematiche torture e assassini di monaci e religiosi, intanto che dall'altro lato deve prepararsi per l'esame più importante della sua vita, l'esame finale per il dottorato in teologia. Malgrado le forti pressioni, supera facilmente gli esami e una folla di 10.000 persone è pronta ad acclamarlo gioiosa. Il giorno dopo riceve un invito dal generale cinese di stanza a Lhasa, che gli chiede di presenziare a una rappresentazione teatrale presso il quartier generale militare. L'invito deve rimanere segreto. Immediatamente si fa strada una concreta preoccupazione. Si tratta forse di uno stratagemma cinese per rapirlo o ucciderlo? 10 marzo 1959, è l'alba. Il risveglio del Dalai Lama è segnato dal rumore di una folla di 30.000 tibetani che si sono radunati per proteggerlo. Intanto, l'esercito invasore aveva messo in campo ben 17 pezzi di artiglieria pesante sparsi ovunque. Sarebbe stato un massacro. Nei giorni seguenti la tensione fra la folla e l'esercito sale. Il 16 marzo l'esercito cinese comunica al Dalai Lama di essere pronto ad attaccare sia la folla sia il palazzo. 17 marzo, due mortai cinesi cadono a un soffio dalle mura della residenza. A un tratto il Dalai Lama capisce che deve andarsene, subito, quella notte stessa. Così mette in atto il suo piano di fuga e scappa, proprio sotto il naso delle truppe cinesi. Affiancato da una piccola scorta armata, il Dalai Lama comincia il suo faticoso cammino lungo 1200 chilometri attraverso le montagne dell'Himalaya e verso il confine indiano, cercando di eludere le truppe cinesi. Lungo la strada lo raggiungono diversi dispacci. Nei giorni dopo la sua fuga, i cinesi hanno bombardato la residenza e migliaia di tibetani sono stati massacrati. Prima di lasciare il suolo tibetano, il Dalai Lama rinnega formalmente l'accordo in 17 punti che la Cina ha precedentemente estorto. Poi annuncia che darà vita a un nuovo governo in territorio estero. È il 31 marzo 1959. Il Dalai Lama attraversa il confine indiano e l'esilio comincia. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato alla vita di Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama. Siamo nella primavera del 1959, quando l'assedio dell'esercito cinese di Mao costringe all'esilio il leader spirituale e politico del Tibet. 18 aprile 1959. Il Dalai Lama arriva nella città di frontiera indiana di Tezpur. È un uomo senza più nazione, un re senza più un paese, un rifugiato. Alcuni giorni dopo, il primo ministro indiano Pandit Nehru gli dà personalmente il benvenuto, ma in privato lo rimprovera per la sua ingenuità politica. Pico Iyer, autore del libro La strada aperta, vita e pensiero del 14° Dalai Lama. Fino a che si trattava di rifugiati religiosi, l'India poteva giocare il ruolo di ospite, ma politicamente non poteva fare nulla. Era in una posizione delicata e c'era il rischio che dovesse schierarsi contro il Tibet. Ma Nehru accetta di accogliere il flusso di rifugiati al seguito del Dalai Lama. E per il leader tibetano questo esodo assume subito la priorità assoluta. Il Dalai Lama ripone la propria fiducia in altre nazioni. È certo che l'America andrà in suo soccorso non appena conoscerà la situazione. E anche se questo non piacerà a Nehru, decide di fare una dichiarazione politica. Le forze armate cinesi hanno distrutto numerosi monasteri. Molti lama sono stati uccisi e altri sono stati prelevati e costretti a lavorare alla costruzione delle strade cinesi. Inoltre, le interferenze nell'esercito della libertà religiosa sono in crescita. Il Dalai Lama prega per la pace, ma presto capisce che nessuna nazione offrirà aiuto. Il destino del paese è dunque nelle mani dell'unico amico, Pandit Nehru. Cominciando a capire che l'esilio potrebbe durare per sempre, il Dalai Lama, ormai 24enne, e il suo popolo cercano di insediarsi stabilmente in un vecchio accampamento inglese sulle colline tra le montagne a Dharamsala. La nuova sfida ora è quella di fondare un nuovo Tibet. Ancora Pico Iyer. Dharamsala alla fine cominciò ad assomigliare in tutto e per tutto al vecchio Tibet. Ma questa volta era una realtà inserita in un mondo moderno e non più isolato. Un intero popolo di rifugiati si dedica alla ricostruzione di un mondo a partire dalle scuole. Le innovazioni c'erano, anche di tipo culturale. Le donne, per esempio, potevano studiare accedendo al dottorato. La scienza era parte dell'itinerario di studi monastici e, per la prima volta in assoluto, il governo, il primo ministro e il gabinetto erano eletti democraticamente. È lo stesso Dalai Lama a redigere la nuova Costituzione che include una clausola per la sua eventuale destituzione. E i tibetani ne sono profondamente sorpresi. Il Dalai Lama stava introducendo la democrazia quasi autodetronizzandosi, ma il popolo non era abituato a una responsabilità così grande. Grazie alla generosità del ministro Nehru, il Dalai Lama ora è al sicuro, ma quando l'India viene attaccata non può offrire alcun aiuto. Alle prime ore del mattino del 20 ottobre 1962, le truppe cinesi invadono il paese attraversando il Tibet e la guerra sino-indiana inizia. L'India di Nehru ora sperimenta in prima persona l'aggressione militare cinese. La vittoria fin troppo rapida della Cina ha un brutto effetto sullo spirito di Nehru. Al termine di una visita all'amico nel 1964, il Dalai Lama dirà alla figlia del ministro, Indira Gandhi, di avere il sospetto che quell'incontro sarà l'ultimo. Una settimana dopo, il ministro muore. Ma non è tutto. Dopo la sconfitta dell'India, Radio Pechino rompe il silenzio cinese e diffonde una terribile notizia. In Cina è cominciata la rivoluzione culturale. Jonathan Spence, professore di storia cinese all'Università di Yale. La violenza, la distruzione delle proprietà, delle opere d'arte, dei testi religiosi e degli oggetti sacri o dei templi andava di pari passo con ciò che ora appariva chiaramente come una vera e propria colonizzazione cinese del Tibet. Tutto ciò che separa il Tibet dalla distruzione definitiva è la nazione tibetana in esilio. La sua stessa esistenza è la prova fondamentale che questo popolo non si lascia annientare culturalmente. Ancora Pico Iyer. Per molti tibetani la preservazione della propria identità era prioritaria. Per questo molti di loro decisero di dare ai figli un'educazione tradizionale, a costo di camminare per 30 giorni attraverso le alte vette dell'Himalaya, condurli fino a Dharamsala, lasciarli nelle mani del Dalai Lama e poi ritornare in Tibet sapendo che probabilmente non li avrebbero mai più rivisti. Se non potevano proteggere se stessi dalle conseguenze dell'occupazione cinese, erano disposti ad abbandonare i bambini per farli vivere liberi. Alla fine degli anni 60 e inizio 70, il Dalai Lama comincia ad ampliare i propri movimenti e si reca in Thailandia e in Giappone. Viene ricevuto in tutti i paesi buddisti come un illuminato, un vero bodhisattva. Ovunque si rechi appare come l'incarnazione vivente della compassione e il suo stato di rifugiato diventa simbolo dell'ingiustizia cinese. Dopo la morte del presidente Mao nel 1976, il Dalai Lama decide di occuparsi a tempo pieno del suo paese e cerca di stabilire dei negoziati con la Cina, mentre mette a punto una diversa strategia di resistenza alla colonizzazione. Introdurre la cultura tibetana in tutto il mondo prima che la sua terra natale scompaia definitivamente. Nel 1979 il Dalai Lama compie quel primo viaggio negli Stati Uniti che sogna fin da bambino. Incontra alcuni capi religiosi, ma usa questa opportunità per portare a conoscenza del mondo la causa tibetana. 6 anni prima compie il suo primo viaggio in Europa, incontra Papa Paolo VI a Roma e visita altri 8 paesi. La Cina risponde a queste sollecitazioni invitando di nuovo il Dalai Lama a tornare in Tibet. La delegazione che vi si reca a suo nome ritorna con delle notizie terribili. Nei 20 anni di occupazione i cinesi hanno speso miliardi per modernizzare il paese, ma mattone dopo mattone l'Armata Rossa ha smantellato la cultura tibetana. Il Dalai Lama si rifiuta di rientrare in Tibet e il governo comunista cinese lo denuncia quale separatista reazionario, lanciando un'altra grande ondata di repressione. Nel 1987 il Dalai Lama stende un progetto per un piano di pace articolato in 5 punti. Molti tibetani rimangono profondamente sorpresi poiché egli non chiede più l'indipendenza, ma almeno la preservazione e l'autonomia culturale del Tibet quale territorio cinese. La Cina respinge la proposta, ma dopo più di 30 anni di occupazione la rabbia dei tibetani non può che riversarsi nelle strade. Poi, nel marzo del 1989, accade un disastro. Circa 250 tibetani, disarmati, in corteo per una dimostrazione, vengono uccisi in massa. La violenza aumenta in maniera esponenziale da entrambe le parti. Nel 1989 gli viene assegnato un importante riconoscimento per una vita di devozione alla non violenza. È il Nobel per la pace. My brave countrymen and women inside Tibet. Il mio popolo è fatto di uomini e donne coraggiosi che continuano a vivere in Tibet malgrado le sofferenze passate e presenti. Il prezzo che stiamo pagando consolida la nostra convinzione secondo la quale, con le armi della virtù, del coraggio e della determinazione, alla fine ce la faremo. Libereremo il Tibet. Tibet will be liberated. Eppure, anche se il mondo applaude ai suoi sforzi, la campagna cinese verso la modernizzazione del Tibet continua indisturbata e senza sosta. Nel 2002 la Cina accetta di incontrare 2 inviati del Dalai Lama, ma continua a scoraggiare apertamente gli altri paesi a fare altrettanto. Nei mesi precedenti le Olimpiadi di Pechino, le autorità sono molto sensibili a un'immagine della Cina assolutamente positiva. Per ironia della sorte, Hu Jintao, ex capo del Partito Comunista in Tibet, che ordinò la repressione dell'89, diventa presidente della Cina. Proprio per questo, l'anniversario della insurrezione tibetana, celebrato nel marzo 2008, si trasforma in una rivolta di massa che sconvolge le strade di Lhasa. Quale risultato di questa situazione di forte tensione? Varie ondate di protesta attraversano sia il Tibet che i territori limitrofi. A Londra, Parigi e San Francisco, la fiaccola olimpica che percorre il proprio lungo tragitto intorno al mondo diventa il catalizzatore per le manifestazioni contro la repressione politica del Tibet da parte della Cina. Le autorità intanto accusano la cricca del Dalai Lama di istigare le proteste, ma la verità è un'altra. Sorprendendo il mondo intero, il Dalai Lama annuncia il suo incondizionato supporto alle Olimpiadi di Pechino. If violence become out of control, then my option is resign. Se queste violenze dovessero sfuggire a ogni controllo, la mia unica possibilità sarebbe dimettermi. Noi sosteniamo completamente i giochi olimpici e la fiaccola olimpica ne è una parte fondamentale. Bisogna rispettarla e proteggerla. Lo sforzo diplomatico di alcuni leader mondiali convince la Cina ad accettare un incontro con il Dalai Lama. Ma il 12 maggio 2008 accade qualcosa di imprevedibile. Un terremoto devasta la provincia cinese del Sichuan. Le proporzioni del disastro e gli sforzi internazionali per soccorrere le vittime inevitabilmente distolgono l'attenzione dal Tibet, concentrandola solo sulla Cina. Quando il dolore per il terremoto e l'entusiasmo per i giochi olimpici del 2008 cominciano a diminuire, il Dalai Lama spera che il mondo non dimentichi il Tibet. Vi segnaliamo che questo documentario andrà in onda su History Channel martedì 9 dicembre alle 12.25 col titolo Dalai Lama, l'anima del Tibet. Un ringraziamento in redazione a Laura Marchesi. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.